Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia, l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Questa è l'ultima trasmissione della stagione. Ringraziamo tutti voi per la cortese e spesso affettuosa attenzione e ringraziamo Ezio De Gradi per la regia e per tutto il lavoro che ha reso possibile la nostra trasmissione. Oggi in alcuni stacchi avete sentito gli Ottavo Richter, che suoneranno mercoledì 14 giugno alla Fabbrica del Vapore, alla cara memoria di Veronica Sacchi. Grazie. Grazie a tutti anche da parte mia. I testi dovrebbero essere tornati tutti sul sito e sono a vostra disposizione. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto e ci hanno comunicato i loro pareri. Ci sentiamo. Presto o tardi ci risentiamo. Abitacoli, capsule, veicoli, rifugi versatili e